No, siamo qui per parlare di esperienza, di pittori più che di pittori. No? Niente, stiamo qui per parlare di un incontro, di un seminario, insomma, che ho organizzato in accademia, insomma, che ho proposto. Siamo insomma, qui per parlare di arte contemporanea. Questa era la voce per parlare di arte contemporanea. Era sì. La voce di mio figlio quando ho cominciato Coxo Spaziale. Ah, sì? Adesso ha quasi 19 anni. Ah, okay. Allora ti sostituirà nelle prossime trasmissioni. Infatti, insomma, dopo la 666esima puntata, quando saluterò tutti. Cosa? È già passata, però, la 566. No, la 666esima puntata. Vabbè, abbiamo detto il seminario. Il seminario, vabbè, il seminario che si chiama Biografia in Arte. E praticamente io l'ho proposto, diciamo, per due motivi. E quest'anno questo seminario ha in effetti per molti anni ho organizzato dei seminari, insomma quasi per 10 anni, insomma, dove invitavo ogni anno tre artisti, da 3 a 6 artisti, okay. Per cui anche realizzato in collaborazione col Mambo, insomma, quindi uh-huh. Diciamo che è un'esperienza precedente, insomma, abbastanza ricca, insomma, di ospiti, insomma, no? Però diciamo adesso ho ripreso, insomma, quest'anno mi è venuto di nuovo voglia, insomma, di riportare, insomma, degli artisti in accademia, perché penso che questa cosa sia veramente importante per la formazione degli studenti, insomma. Sì. Quindi, e hai chiamato degli ospiti d'eccezione quest'anno, ospiti che io stimo molto, ovviamente, per la stima che ho di loro, e che sono Jacopo Benassi e Luigi Presicce. Allora, Luigi Presicce lo conosco già, appunto, perché abbiamo fatto altre cose prima, insomma, no? Abbiamo fatto un bellissimo workshop al Mambo, insomma, con 25 studenti, che erano tanti, un'esperienza bellissima che si è conclusa poi con una performance, insomma, no? Prima, quando lui, insomma, operava, diciamo, di più con la performance, insomma, si è conclusa con una performance. Ora l'ho rinvitato, quindi, insomma, lui, diciamo che lo conosco personalmente, siamo amici, insomma, quindi mi fa piacere anche rivederlo, insomma, perché non abbiamo sempre occasione di vederci. Jacopo Benassi è la prima volta che facciamo una cosa assieme, e di questo sono veramente contento, insomma, perché è un artista che stimo, insomma, quindi mi fa piacere anche il fatto che sia lui a iniziare, insomma, perché comunque Jacopo ha un modo di lavorare che a me interessa molto, insomma, farlo relazionare, appunto, con i nostri studenti, insomma, capito? Quindi perché sarà comunque un artista che non ha assolutamente, è un autodidatta, insomma, no? Cioè proprio completamente non ha, anzi addirittura ha smesso, diciamo, ha mollato la scuola, le scuole medie, insomma, quindi proprio ha cominciato a cercare il modo di sostenersi, insomma, economicamente, e quindi a fare il meccanico, insomma, per cui ho capito che proprio con la formazione, diciamo, canonica dell'artista non c'entra niente, insomma, capito? Quindi questa cosa mi piace molto, insomma, perché comunque è sicuramente un artista molto diretto, molto genuino, insomma, forse per questo suo passato, immagino. Insomma, non ha potuto vivere di arte sicuramente non dall'inizio. No, chiedo sì, se oggi... sì, in realtà sì. Io parlavo di arte nel senso, diciamo, percorso, diciamo, sì, ho capito. Istituzionale, insomma, no, dell'artista. Gli studi, insomma, famosi. Sì. Lui si è formato invece in una dimensione, diciamo, che okay, quella della. Ha creato, diciamo, alla. E lui è di La Spezia, okay. Anni, del 70, quindi sì. Insomma, negli anni 2000 ha praticamente aperto un locale insieme a suoi amici, insomma, sì. Che si chiamava Bitomic, perché esisteva, diciamo, a Milano un altro locale quasi omonimo, insomma, che si chiamava Atomic. Okay. Quindi loro hanno praticamente creato questo centro sociale, insomma, questo spazio che, da quello che ho capito, era uno spazio piccolissimo, quindi non una cosa, cioè non uno spazio grande, uno spazio piccolo, che però in quel periodo era, diciamo, un'anomalia felice, perché ha visto, appunto, la presenza di molti musicisti importanti, insomma, anche, no? Come i Dark Wave, i Zola Jesus, insomma, c'era tanta roba interessante, insomma, cioè cose che magari si vedevano a Berlino in quel periodo, a Londra, insomma, capito? Certo, quindi, certo. Io infatti, diciamo, quando ho conosciuto Jacopo, lui vendeva queste zine fatte di fotografie che lui faceva alle band che venivano a suonare al Bitomic, e le allegava a questo CD dove c'era la registrazione del concerto che loro avevano fatto, ma erano delle fotocopie in bianco e nero, cioè, fantastiche, cioè erano proprio super underground, capito? E in effetti, cioè, anzi, quindi questi gli anni 2000 circa, abbiamo detto. Sì, questa è la sua formazione, okay. Insomma, si è formato in un ambiente, diciamo, underground, amante del punk fin da piccolo, okay. Proprio, capito? Quindi poi si è ritrovato a viverci dentro, insomma, capito? Quindi questa è la sua formazione. Ovviamente queste cose poi sono riscontrabili sicuramente nel suo lavoro, insomma, no? Che a questo atteggiamento, insomma, nel lavoro lui, capito? Quindi poi domani sarà occasione per capire meglio, insomma, questa, certo, vicinanza. No, infatti io sono super curioso, relazione, perché una lezione dove lui racconta il suo percorso non l'ho mai sì, avuta. Cioè, nemmeno io. Ma l'avevo sentito da Alchemilla, dove parlava della sua visione dell'arte, però già, voglio dire, adesso lui lavora con una galleria importante, uh-huh, e sta avendo un ottimo successo di critica, insomma, sì, di pubblico, eccetera. Galleria importante, quale, dove? La Minini, Francesca Minini di Milano, credo. Ah, Milano, ok, sì. Perché vedendo, uh-huh, La Spezia, ho pensato, siamo... La Spezia qualche anno fa ha fatto una personale bellissima, uh-huh, curata da Antonio Grulli, che è venuto qua a Coxo Spaziale, uh-huh, un po' di volte, e in questa sede di questa banca io sono andato appositamente, sì, alla Spezia a vederla, perché sono un suo grande fan, ed era veramente potentissima quella mostra. Ma noi Benassi non l'abbiamo mai avuto? No, noi non l'abbiamo mai avuto. Purtroppo io l'avevo cercato di invitarlo, insomma, però oggi era impegnato a Milano, okay, insomma, quindi no, adesso vediamo ormai, se riusciamo ormai a portare visto, magari Luigi. Ma lo rinviteremo. Ma io ho una domanda, siccome non c'entro ancora nulla con l'Accademia, nel senso che non sono ancora studentessa, mm-hmm, iscritta, ma è aperto anche al pubblico, insomma, certo, non studiante, sì, questa, sì. Questi incontri sono questi aperti incontri al pubblico, sì. Sono nell'aula magna? No, l'aula magna dell'Accademia alle 15.30, insomma, domani. Domani, sì. 15.30. Che i motivi erano appunto due, mm-hmm, questo che stavo spiegando all'inizio, sì, insomma, no? Cioè, uno riguarda tutti, quindi perché sono comunque incontri aperti a tutti e ovviamente riguardano tutti. L'altro invece, perché io all'interno del mio corso sto facendo un seminario sul concetto di biografia in arte, capito? Col primo anno del mio corso, insomma, stiamo facendo questa ricerca, insomma, con ovviamente dei lavori che poi realizzano, insomma, in base a quello che troviamo, insomma, strada, uh-huh, facendo, insomma. Quindi questo incontro fa parte anche, diciamo, di un seminario interno. Però è rivolto a loro, ma è rivolto ovviamente a tutti gli studenti dell'Accademia, insomma, perché sì, no, io presumo, a parte che io ho fatto un sacco di pubblicità, però presumo che domani l'aula magna sarà bella piena, proprio perché emozione. Jacopo Benassi, quella che arrivi sulla sinistra, sì, esatto, esatto, appena entri sulla sinistra, sì, quella bellissima, che quella sembra, dove mi affaccio tutte le volte e mi dicono lei ci fa qualcosa qui, no, non faccio nulla, allora quella, okay, è la porta, esatto, grazie. Sì. Oddio, è il nuovo disco della Tundra, che è uscito il 20 marzo. 11 brani, 33 minuti e 22 secondi, che iniziano con la noia e finiscono con un funerale. In mezzo macchine, case, lavoro, nemici, Dio e soprattutto quella sensazione costante di essere sempre un passo indietro rispetto a ciò che si desidera davvero. Ascoltiamoci Padrone e ringraziamo Agnese di Per Press che ce l'ha mandata. Sempre grazie. Sono così stufo, sono come quel cane che rimane lontano da casa anche se muore di fame. Io sono stufo, mi sento come un cane che è scappato dal suo padrone a costo di patire la fame. I'm Mi sento come un cane che è scappato dal suo padrone a costo di patire la fame, a costo di morire di fame, a costo di morire di fame, a costo di morire di fame, a costo di morire di fame. E se non fatti piacere forse è finita? Ah sì, è proprio abbiamo... è finita così. Siamo giunti alla fine così. Siamo giunti alla fine così. No, neanche uno sfumato, sì, un fade out. No, così. No. Così. Boh. Uno sfumato okay. Così. A secco. A secco. E quindi. Quindi. Seminario, biografia in arte. Mm-hmm. All'Aula Magna, dove dicevo che tutto lì all'ingresso sulla sinistra, alle 15.30. Domani. Allora, domani 15.30 Jacopo Benassi e poi dopo martedì prossimo Luigi Presicce, che può darsi che se viene magari un giorno prima magari un'occasione lo trasciniamo qui, ma sì, perché martedì viene dopo il lunedì. Esatto. Sempre, se Luigi ci sta ascoltando, anzi può mandare un messaggio al 333 180 94 94 e confermarci che verrà a Coxo Spaziale lunedì prossimo, altrimenti vabbè, c'è Pasquale Fameli, faremo con lui. Ok. Sempre che non sì, che non dai. Ci tiri il palco. No, perché ultimamente sta succedendo un po' troppo spesso che oggi è la giornata del no, quindi oggi è la giornata del no. No. Quindi no, ha vinto il no e siamo contenti. Siamo contenti no. Così. Marco Roma continua. Intanto ti interrogo. No, Marco Roma niente, Marco Roma. No. In compenso abbiamo un sogno. Abbiamo un sogno che abbiamo di già. Di ghiaccio, no. No, non è la gelateria Sogni di Ghiaccio, ma è un sogno che fa forse il sogno così. Della notte del 15 gennaio 2026. Urlo ai folli potenti del mondo. Donald! Benjamin! Vladimir! Mi sveglio. Una voce metallica urla a me. E un'altra voce incalza. Perché agli artisti non è dato il potere di contrastare e controllare la follia del mondo? Buonasera Stefano e buonasera compagni di strada di Coxo Spaziale. Vorrei ringraziare con questo mio messaggio tutti coloro che ormai da 2 settimane stanno inviando pensieri, citazioni, musiche, riflessioni su questo nostro periodo belligerante ed estremamente complicato. E i cui sogni si stanno unendo al mio sogno urlo ai potenti del mondo, che ha dato inizio al tutto e dove utilizzo il vero ammonimento minaccioso della polizia americana. quando va a sventare violazioni di domicilio e proprietà privata. Io continuo a riflettere, raccolgo, lascio che questo materiale cresca e invito ancora. Ogni lunedì voi di Coxo Spaziale, bontà vostra, mandate in onda i messaggi che stanno arrivando e questo continuerà finché vorrete ospitarci. Rinnovo l'invito a inviare, vi ringrazio e a presto risentirci. Questo era l'intervento di Thierry Weed da Caen in Normandia. E invece ci ascoltiamo anche Martina Roberts che ci dice così, forse. Queste guerre sembrano molto lontane, ma sono molto vicine, molto più vicine a noi di quanto pensiamo. Le guerre hanno una natura economica e di controllo. La guerra è contro l'umanità. Questa umanità, fatta di emozioni e di sensi, viene annientata davanti ad uno schermo dove tutto si appiattisce. I social media tendono a mostrarci contenuti che confermano le nostre convinzioni preesistenti per massimizzare il tempo speso sulla piattaforma. Questo fenomeno crea bolle in cui il dissenso scompare. In guerra questo significa che l'avversario viene costantemente disumanizzato senza che l'utente riceva mai una voce contraria. Senza il confronto con la diversità, le opinioni diventano dogmi. La propaganda non deve più convincerti di una bugia, deve solo impedirti di vedere la verità dell'altro. Hai capito? Naturalmente continuiamo a invitare chi vuole partecipare a questo progetto a spedire i propri vocali al 333 180 94 94 oppure direttamente per email a coxospaziale@gmail.com. Come avrete sentito, c'è un progetto molto simile, se non uguale, di tutta Radio Città Fujiko, e i progetti che arrivano a Coxo Spaziale verranno poi traslati per questa giornata contro la guerra che Radio Città Fujiko sta organizzando. Grazie. Sì, aspettavo di abbiamo tre minuti per una riflessione. Per una riflessione. Niente, riflettevo che stavo andando a guardare cosa fanno Luigi Presicce e Jacopo Benassi. Sono andata un po' a sbirciare. Sì, ho visto. Jacopo Benassi è un fotografo. Infatti, perché pur essendo Lelio il titolare di un corso di pittura, la pittura è vista in maniera più ampia possibile. Certo. Jacopo Benassi di fatto è un fotografo che però ogni tanto due colpi di pennello li dà, anche due colpi di creta. Infatti prima quando parlavamo della anche musica di cinghia ogni tanto. Ma lui infatti non si definisce un fotografo, no, si definisce un artista. È un artista, perché siamo partiti a parlare di musica. Ricordiamoci che io parto sempre dal non sapere nulla e far domande, certo, che partono da zero. Okay. Quindi mi ero fatto un'idea che fosse più nell'ambito musicale il suo essere artista. No, ma si gli è artisti formato nell'ambito si è formato, musicale, infatti. Giusto? Lui non realizza anche delle performance che hanno a che fare col suono, sicuramente, insomma, no? sì, ha fatto anche dei disco. Concerti, insomma, quindi cosa arriva prima, subito dopo la musica, nella sua vita a livello di arte? Il sesso. La fotografia. Ma Stefano, oh, io la dico, ma come c'è sempre durante, prima, dopo, no, ma vabbè, che risposte dai, no, cioè, se conosci il lavoro di Jacopo vedrai che mi daresti ragione, capito? Il corpo, okay. Comunque il corpo, il corpo, il sesso, insomma, ha fatto un catalogo bellissimo chiamato Butts, che sarebbe culi, quello dove, appunto, dove in copertina c'è un culo. Fotografato da lui. Certo, sì. Ovviamente, che dobbiamo fare. E invece il discorso creta pittura, che quello passa tra le due, tra la musica e la fotografia. La creta, la pittura e la fotografia. Così, no, passa tra la fotografia, tra la musica e la fotografia, no. Fra l'altro, io quasi quasi lo definirei uno scultore, perché in effetti lui fa questi accrocchi di fotografie legati con delle corde, con anche della pittura attaccato, delle cornici rotte, del vetro rotto. Cioè, in realtà lui parte dalla fotografia, ma alla fine questi oggetti sono proprio come oggetto costitutivo della sua. Sì, sì, sì. Cioè, sono delle installazioni. Poi di fianco ci mette le sue ciabattine. Certo, vabbè, sicuramente e via attraverso diversi linguaggi, insomma, no? Certo. È questo, giusto? Sì, è questo. Detto questo, io volevo... ahimè, sono le 20:30, per cui vi interrompiamo e facciamo così. Sento coxo spaziali girare sulle atmosfere, sento coxo spaziale scendere sul pianoforte musicale, brilla coxo spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori, c'è Marco Roma. Una trasmissione, ecco, di sigle, eccoci qua, bentornati. Noi qua guardavamo. Parlavamo di Antonio Grulli e questa era la sua voce una volta in cui Marco Roma ci ha fatto il jingle post pubblicità. Perché invece il 20 marzo è uscito anche Cose Esplose, ovvero il nuovo singolo di Sandri, secondo estratto dal disco di inediti Animalerie, che è in uscita il 17 aprile. E ce l'ascoltiamo? Cose Esplose racconta di due persone che trovano rifugio l'una nell'altra in un mondo fragile e confuso. Quando la realtà sembra andare in pezzi e l'amore apre uno spazio naturale e istintivo, libero dal peso della vita. Ringraziamo Agnese, stavolta di Bell Press. Non so se sei la stessa Agnese o sono io due Agnesi diverse. Press, no. No, invece questa è di Bella Press. Bella Press, okay. Per averci mandato Cose Esplose. Ascoltiamo questa canzone esplosiva di Sandri. C'è in me quel senso di animale veloce. C'è in me per te una tana per la tua voce. E poi ci sono cose esplose. Il mio amico Giovanni ha detto che è questione di anni. Ha detto siamo appesi a un filo e non più all'attaccapanni. Dice che siamo cose esplose che fanno luce sopra un regionale veloce. C'è laggiù una linea d'oro che acceca. C'è quell'uomo che fa festa e tira al cielo tutte le foglie. E il cielo le vuole tra le sue stelle, lucciole nella tua pelle. Potrei già morire qua. Io con te sento come, sento animale feroce. C'è in te per me una tana per la mia voce. E poi ci sono cose esplose a fianco alla via, dove c'è sempre la polizia. Ivan Graziani. Non è male, eh? Scoperto, anche di Alberto Fortis, no? Lucio Corsi. Lucio Corsi, Alberto Fortis, Lucio Corsis. Lucio no, Corsis. Però è bello, mi piace. Direi che è anche meglio. Di io ho usato un sto, che bel ting. Sto urlo inaspettato non è male. Cioè comunque a cantare così ci vuole. Cioè io il karaoke di sto pezzo non ce la farei a fare. Sappiatelo. Anzi, sappilo, visto che dobbiamo andare a fare il karaoke insieme. Dovete venire ogni tanto, come venerdì prossimo ne provo uno nuovo. Venerdì prossimo sono un po' impegnato, ma lo sentirai fra poco. abbiamo qualcosa da fare. Sì, no, al 5 Cilab. Abbiamo una settimana abbastanza impegnativa, sì, in accademia, cioè praticamente ci sono tre cose ogni giorno, ma adesso lo possiamo già dire subito. Iniziamo. Sì. L'angolo della menzione. Con l'angolo della menzione, che tu non sai, Leglio, che noi di solito menzioniamo tutto quello che succede durante la settimana, ovvero. Ma no, lo so. Ah, certo che lo sa. Vedi, lui ci ascolta. Bravo. Non sempre, ma sì. Martedì, che è domani, alle ore 10:30, già in Aula Magna. Freschi come delle rose. L'Accademia di Belle Arti ospita il primo incontro del ciclo Sguardi in Foto Festival, che vedrà dialogare Walter Guadagnini, docente di storia della fotografia, con Francesco Zanot, critico e storico specializzato appunto in fotografia. Questo è in Aula Magna, l'Accademia di Belle Arti, in via Belle Arti 54 a Bologna. E poi sempre quindi, giornata della fotografia domani. Infatti, veramente. Perché poi alle 15:30, appunto, sempre nell'Aula Magna, ospita Biografia in Arte, ciclo di incontri a cura di Lelio Aiello, con la partecipazione di Jacopo Benassi e il martedì successivo Luigi Presicce. Il progetto seminariale mette al centro il rapporto tra esperienza personale e pratica artistica, proponendo due appuntamenti aperti agli studenti e al pubblico esterno. Sempre a Lomagna, sempre in Accademia delle Belle Arti, via Belle Arti 54 a Bologna. Mercoledì 25 marzo alle ore 18:30 per il ciclo Voci di Corridoio abbiamo Pietro Travaglini, che ospita presso il suo atelier il sesto appuntamento con gli artisti Filippa Armstrong, che è stata anche qui ospite a Coxo Spaziale, e Gaetano Buttaro, con l'introduzione di Sandro Malossini. A seguire studio visit da Pierluigi Vannozzi. Tutto questo all'atelier Pietro Travaglini in via Zanolini 7 a Bologna. Giovedì invece, 26, alle ore 18, la sala conferenze Mambo Museo Morandi ospita la presentazione del volume Falso ma Vero, crisi dell'originale e ricerca del vero, a cura di Valerio Deo. Detto bene? Mm-hmm. In dialogo con Deo, Giovanna Caimmi, artista e docente Accademia di Belle Arti Bologna, Silvano Venturi, docente sempre l'Accademia di Belle Arti a Bologna, di Belle Bologna. C'è scritto Belle Bologna, vabbè, infatti, però interessante. È interessante comunque, non fraintendibile. Sarà inoltre presente l'editore Cristian Marinotti nella sala conferenze Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna. Sempre giovedì alle 18:30 abbiamo la presentazione del catalogo della mostra Eco delle piccole distanze, fotografie di Carolina Negroni con testi di Margherita Maccaferri. Questo a Boa Spazio Arte in via Barberia 24A a Bologna. Venerdì 27 alle 10:30, l'aula G1 della sede di Via del Guasto ospita il ciclo di conferenze Segni di scuola a cura dei prof Chiara Guerzi e Aghim Sacco, in collaborazione con la biblioteca Vincenza Riccardi Scassellati. Venerdì, Giorgio Morandi, L'arte di lasciare il segno, un focus sull'opera incisoria di Giorgio Morandi, dove il segno diventa strumento di ricerca e riflessione. Dalle acque forti alla didattica, Morandi si rivela incisore maestro capace di unire rigore e sensibilità, trasformando il segno in strumento di conoscenza e formazione. Relatrice Lorenza Selleri, curatrice del Museo Morandi, in aula G1 all'Accademia di Belle Arti di Bologna, in via del Guasto 7 a Bologna. Sempre venerdì alle ore 15, dal 27 al 29 marzo, si terrà al Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, l'evento conclusivo di ArtIT, Art in Transition, progetto promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca per le istituzioni AFAM. Art in Transition è stato ideato da Cristina Francucci con l'obiettivo di promuovere nuovi modelli di formazione artistica. Il progetto si è svolto nell'arco di oltre un anno sotto la responsabilità scientifica di Maria Rita Bentini e con il supporto di un gruppo di lavoro guidato da Daniele Campagnoli, Laria Del Gaudio e Marinella Paderni, Marco Locurzio e Ambra Stazzone, Silvia Deo, Francesco Spampinato e Valentina Rossi, Laura Melosi, Fabio Cursi e Sara Gallegati. Venerdì 27 marzo alle ore 15 presso il foyer del Mambo si inaugura l'installazione ambientale ideata da studentesse e studenti con il coordinamento di Elisa Tranfaglie per raccontare l'esperienza maturata durante il percorso di ArtIT. Venerdì 27 marzo alle ore 17 presso l'auditorium del Dams Lab in piazzetta Pierpaolo Pasolini 5B si potrà assistere all'anteprima mondiale del film Precarious Life del 2026 di Lucy e Jorge Horta alla presenza degli artisti e del regista David Bickerstaff. Sabato 28 marzo, sempre parte di questa cosa, alle 10.30 la sala conferenze del Mambo Museo Morandi ospita il progetto Si racconta, esiti e prospettive, evento pubblico di presentazione del progetto ArtIT, Art in Transition. Sul sito artintransitions.art tutti i dettagli del progetto. Tutto questo naturalmente a partire da venerdì alle ore 15 al Mambo in via Don Minzoni 14 a Bologna. Ma sempre venerdì, se aveste così qualche minuto in più, alle 19 però, ultimo giorno per visitare la mostra Broken Dance di Joey Coca e Angela Tragni. Nella serata presentazione del libro Sì lo voglio, autobiografia di un'educazione di Antonietta, è corretto, Antonietta, Marinov. Mm-hmm. Ok, era solo sbagliato. In compagnia dell'attore regista Mario Migliucci al 5C Lab di Serendipo in vicolo dei Facchini 5C a Bologna con Stefano. Sì, fra l'altro Joy Coca è anche una delle studentesse di ArtIT, Art in Transition, per cui quel venerdì lì dovrà avere il dono dell'ubiquità ed essere, ma lei essere lo saprà fare in entrambi i posti. Certamente. Esatto. Dopodiché sabato ci possiamo riposare, possiamo stare in casa, mentre lunedì 30 marzo alle ore 11 l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ospiterà la mostra Neoclassic Dystopia. Prima personale ospitata in Emilia Romagna di Sicci, sai che non riesco non riesco a leggere perché c'è il traduttore, come si chiama, il correttore ortografico che mi fa una riga rossa, non riesco. Io vedo una SVCCY. Ah, ok. Non so Svci. Artista originario di Ravenna. A cura di Silvia Bonomini, la mostra è un percorso artistico tra memoria classica e immaginario digitale che costruisce scenari distopici in cui l'essere umano appare prigioniero delle tecnologie e delle architetture che ha creato, ma al tempo stesso lasciano intravedere le possibilità di un diverso equilibrio tra uomo, natura e spazio urbano. Tutto questo all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro 50 a Bologna. Basta. Con le menzioni Siamo. Possiamo continuare con martedì per Luigi Presice, ma poi lo racconteremo di nuovo. E che poi l'abbiamo pure prossimo, anticipato, appunto, perché abbiamo detto è per il lunedì successivo. Tanto lo diremo anche lunedì prossimo, così. Fra l'altro hai chiamato uomini di poche parole, cioè non è che Luigi Presice, io non l'ho mai sentito fare un discorso in pubblico di poco più di qualche frase, per cui mi sbaglio, io non lo... No, ha già fatto una conferenza. Ah, vedi? Ok, a posto. È abbastanza... No, è abbastanza sciolto. Ottimo, insomma, mi fa piacere, perché poi fra l'altro questi artisti veraci quando parlano, cioè ti danno degli spunti per gli creativi danno degli spunti veramente enormi. Mm-hmm. Cioè ogni tanto saltano fuori delle chicche notevolissime. Per esempio, davanti a degli... Ah, scusa. Per esempio, Jacopo Benassi, quando è venuto ad Alchemilla, che ha fatto questo incontro insieme a Alessandro. Alessandro, cavoli, non mi viene il cognome, fra l'altro è un collega della radio. Dai. Lo vado a cercare, 3 secondi dovrei trovarlo. Vai, cercalo. Allora, scrivi Benassi, Alchemilla, Alessandro. C'hai ragione. Brighetti. L'ho detto io. Scusami, Alessandro, sulla punta delle mie. Che è successo quindi? Tutti e due hanno detto due frasi notevolissime. Uh-huh. Che naturalmente io mi sono segnato su un taccuino che non ho qui con me, per cui non posso condividerle con voi. Domani che metterai, anzi, stanotte o domani che metterai la puntata in differita metterai la fotografia, scriverò le frasi di Alessandro Brighetti o di Jacopo Benassi o di entrambi, che non mi ricordo che, e chi andrà sul blog e leggerà le mm-hmm. frasi che hai messo ci può mandare il vocale di quelle frasi. 180, 94. Oddio, abbiamo un vocale davvero. No, let's go. Sentiamo cosa succede. Qualcuno ci ha mandato un vocale davvero fantastico. Che bello. Questo vocale. Book the Fajikas. Book the Fajikas. Che si convertiu p. Mi avevate chiesto un vocale, ma vi ho mandato un consonante. Ciao. Fantastico Riccardo Lolli, ringraziamo la meraviglia. Ci manchi tantissimo, fra l'altro, Riccardo. Devi venire in radio con la tua tastierina e farci qualche piccolo numerino. Anzi, adesso ve la faccio sentire un piccolo numerino di. Sì. Adesso devo trovarlo perché si intitolava Segnale Orario, però Riccardo Lolli fra l'altro è un componente di Radio Città Fujiko anche lui. Cavoli, dove sai che non lo trovo? Com'è possibile? Stavo per dire, l'abbiamo ospitato. No, sì, è anche lui. Certo, no, l'abbiamo ospitato più di una volta, anzi. Ma non c'ero ancora, anche, o non ricordo io. È stato un bel po' di tempo fa, in effetti. Ma continuiamo a parlare di qualcos'altro. Aspetta, che stavo cercando. Sì, lasciamo a te un po' il tempo di. Però io ti vedo con un sacco di materiale. Secondo me qualcosa io non te l'ho chiesta ancora. Allora, io mi prendo questo mm-hmm. perché c'era una roba che ho buttato. Perché ho scelto Luigi e Jacopo? Abbiamo il bisogno di saperlo anche noi. Perché hai scelto? Ma l'avrei già detto prima, insomma, perché. Vabbè, perché sono due artisti che hanno molte implicazioni biografiche, insomma, nel lavoro, e siccome, capito, l'argomento di ricerca mio di quest'anno, sia nell'accademia che, insomma, anche nella vita, insomma, è quello di cercare di capire quanto queste due cose coincidono, insomma, no? In realtà coincidono quasi sempre, però in alcuni artisti sono più evidenti, insomma, capito? E loro due hanno, e loro appunto, comunque, come ti dicevo prima, sia Jacopo che Luigi, forti implicazioni nel lavoro, dal loro vissuto, insomma, dalla loro biografia, capito? Quindi questo mi interessava molto, mi interessa personalmente, mi interessa da tanto, insomma, non solo da ora, però adesso. Raio. Segnale orario. Questo è l'intervento di Riccardo Lolli che aveva fatto l'avevo nominato Raio perché al tempo c'era questo Raio che ci scriveva sempre dei messaggi quando tu ancora non c'eri, Cinzia. Invece, e poi ha smesso di ascoltarci Raio, si è rotto il Così. Segnale orario. Succede. Io vado a sguardare. Sei una gran curiosa, però domani vieni in accademia. Sì, se non allora, fosse alle tre e mezza di pomeriggio. Se non fosse che a quell'ora lavoro. Le persone comuni, in effetti. Se non fosse che a quell'ora lavoro, ma ci sarà un tempo in cui avrò più tempo libero. Ti posso chiedere che lavoro fai? Lavoro in una segreteria di una scuola di cinema. Di cinema? Sì, Accademia Nazionale del Cinema. Poi siamo anche non tanto lontani, quindi infatti. io quando la mattina esco tanto presto di casa mi allungo nella vostra di Accademia e mi fermo a guardare all'ingresso tutte quelle statue, tutti statue, tutti quei bellissimi, come si chiamano? Alto, basso rilievi, basso rilievi. Sì, quelle fra l'altro sono copie, quelle che vedi sono copie di Jacopo della Quercia, dei basso rilievi che ci sono a San Petronio. Ok, perché lo raccontavo a lui prima di iniziare la puntata che mi sono innamorata della storia dell'arte studiandola a caso, cioè a caso al liceo, e all'inizio era un po' tutto ostico, tutto difficile da ricordare a memoria dove si trova questo, dove si trova quello, tutte le analisi varie eccetera. Poi mi sono perdutamente innamorata dell'osservare dell'osservare l'arte. Sta finendo il tempo, in effetti c'è qualcosa che devi aggiungere, Leglio, perché no, sì. Vabbè, vi aspetto insomma. Cavoli. Ovviamente domani vi aspettiamo insomma, e spero che sia un bellissimo incontro, così mi immagino, come mi immagino che sarà, insomma. No, ci hanno mandato anche un video, un video. 180 94 94, ma ahimè dovete sapere che i video in radio non si riescono a trasmettere, no. Però l'audio del video sì. Sì, però lo puoi raccontare, però Stefano, lo puoi raccontare. Potrei fare, sì, potrei raccontarlo, oppure potrei dirvi che io ero Cinzia Corda. Io ero Stefano W. Pasquini. Ringraziamo tantissimo Leglio Aiello, pittore, artista, nonché docente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, che ci invita domani alle 15:30 in Aula Magna a sentire Jacopo Benassi, per cui così possiamo naturalmente salutarci, ringraziando anche Mili Romano per quel progetto sonoro che ci ha mandato, molto e che bello, e che continua ad andare avanti, e naturalmente ci salutiamo con le parole del nostro direttore. Che ci saluta così, direttore. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Svegliarmi nel mio lettino da solo come un coglione.